sai, che non ti ho detto mai le cose che non sai. Tutte succedono le cose che non sai. Tutti ci chiedono le cose che non sai. Non sono successe mai. C'è chi parla, c'è chi ascolta, c'è chi non si trattiene, c'è chi nella vita ha una lotta, ma la vita può cosa importa. C'è chi non sa ascoltare e chissà cosa va a raccontare. Ma io, scusa, non posso dirti le cose che vado a fare. Le cose che non sai, che non ti ho detto mai. Tra le cose che non sai, tutte succedono le cose che non sai. Tutti mi chiedono le cose che non sai. Non sono successe mai. Quanti volti, quante luci, quanti bicchieri rotti, quante squallide vie buie, nascosti nei ricordi, riaffiorano i pensieri e si posano sui sentieri più lontani del tuo amore per me, dei miei problemi. Le cose che non sai, che non ti ho detto mai, tra le cose che non sai. Tutte succedono le cose che non sai. Tutti mi chiedono le cose che non sai. Non sono successe mai. E la gente che ci guarda ci odia chi lo dice. Tu per loro sei diverso come un sole d'inverno e la pioggia che ci bagna e ci lava dalle colpe, ci toglie la voglia come la gente di questa città. Le cose che non sai, che non ti ho detto mai, le cose che non sai. Tutte succedono le cose che non sai. Tutti mi chiedono le cose che non sai. Non sono successe mai.